100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Ieri sono andati in scena i due volti dell'Europa. Da un lato quello scuro, minaccioso della vicenda greca, così come è emerso dopo l'incontro tra Angela Merkel e Alexis Tsipras, e dall'altro quello più sereno sulle prospettive della ripresa economica indicate da Mario Draghi. La vicenda greca, ormai l'abbiamo inteso, è tutt'altro che risolta, e la trattativa su ciò che l'Europa chiede ai greci e su ciò che i greci possono realmente fare o insomma intendono fare avrà bisogno di ulteriori puntate. C'è accordo sull'obiettivo di una Grecia forte economicamente, lo ha detto anche ieri la Merkel, ma non c'è accordo sulla via da seguire per raggiungere questo obiettivo, e Tsipras ha ribadito come il suo governo si è impegnato in un programma per ridurre le disuguaglianze sociali che il programma di salvataggio concordato a livello internazionale ha determinato. Stando così le cose, non sorprende allora l'ammissione fatta dalla Merkel che il salvataggio della Grecia non sia stata proprio una storia di successo. Insomma, c'è ancora tanta cautela che invece per una volta non ha mostrato Mario Draghi parlando in audizione davanti all'Europarlamento. Il calo dei prezzi del petrolio, l'acquisto di bond, l'euro che scende fanno ben sperare, e Draghi ieri si è spinto a dire di vedere una ripresa economica più solida rispetto a 3-4 mesi fa, ovviamente crisi greca permettendo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Non giriamoci intorno, la legge obiettivo è fallita. Era la legge che doveva garantire lo sblocco delle grandi opere e indurre finalmente una rapida modernizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture in tempi certi e rapidi, cambiando marcia rispetto a un passato di lungaggini e inefficienza. Era il 2004 quando quella legge venne approvata. 10 anni e più dopo il bilancio è sconfortante. Delle opere pianificate allora e rilanciate anno dopo anno, in liste sempre più velleitarie, il complesso è poco più dell'8%. Lo dice il rapporto Cresme e quello del Servizio Studi della Camera. In 11 anni, insomma, la lista delle priorità è cresciuta alla quota faraonica di 419 interventi per un controvalore di 383 miliardi. I costi di realizzazione sono lievitati del 40%. Nel giorno del decalogo anticorruzione scritto dal commissario Raffaele Cantone, è utile ricominciare anche dall'analisi di quello che non ha funzionato nelle regole. Naturalmente quello che ha funzionato peggio è l'argine etico, oltre a quello dei controlli, ma non ha nemmeno funzionato la legge obiettivo, per l'appunto, e l'errore principale è stato quello di affidare ai general contractor, sostanzialmente i destinatari degli appalti, anche la direzione dei lavori, che normalmente è il soggetto controllore. Il controllore, che anche il controllato, è da sempre indice di una distorsione improduttiva, soprattutto in tema di opere, e la dialettica tra appaltante e controllore è preziosa. Senza contare che al general contractor viene affidata la possibilità di intervenire senza particolari limiti con continui cambiamenti dei costi. Insomma, rivedere queste regole è anch'essa una grande opera, forse è la più importante. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.